Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Buon divertimento a tutti, perché sta iniziando l'avventura paralimpica di Londra 2012. Questa medaglia d'oro la dedichi a qualcuno in particolare? A mia madre. I promise that we shall take part in these Paralympic Games. C'è Cecilia, 30,94, record del mondo e vittoria ancora per Cecilia Camellini, fantastica! Mentre sono già ormai esaurite le eco sulle Olimpiadi legate a episodi funesti, a episodi vergognosi, a vicende di doping, di atleti al di sopra nella valutazione generale delle loro reali qualità, ma anche di tanti successi, di tante glorie, è fortissimo e non so quanto avvertito con lo stesso entusiasmo, con la stessa partecipazione comune, il fenomeno delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi che hanno seguito a Londra a stretto tempo le Olimpiadi ufficiali stanno mostrando, secondo me, e questo è il punto di vista con cui vorrei oggi confrontarmi con il pubblico, qualcosa di estremamente nuovo ed estremamente moderno. Le Paralimpiadi sono le Olimpiadi disputate da atleti con problemi di tipo fisico, con degli handicap, perlomeno secondo una terminologia abbastanza desueta, ma lo dico non in onore al politicamente corretto, perché è proprio desueta, perché non si tratta di persone con handicap. Osservate la rappresentazione iconografica di questi atleti. Premetto soltanto dicendo che è stato un grandissimo successo di pubblico. Per quanto sono stati vuoti e deserti a volte gli spalti delle Olimpiadi tradizionali, direi delle vecchie Olimpiadi, queste nuove Olimpiadi hanno avuto un fantastico successo. Perché? Perché è stata una gara tra supereroi. Ancora in una concezione vecchia, antica, ammuffita, desueta, esiste quel senso nella maggiore e migliore delle ipotesi di commiserazione, vedi, poveretti, hanno con i loro problemi, riescono comunque ad avere la soddisfazione di avere dei risultati. No, non è così, non sta accadendo questo. Per una nuova e fantastica alchimia che ha messo in crisi tutti i nostri pregiudizi rispetto alla persona normodotata, rispetto a una sorta di aurea simmetria della natura per cui l'essere perfetto è colui a cui rispondano tutte le caratteristiche morfologiche della normalità, della consuetudine, della maggiore riproduzione. No, esattamente qualcos'altro. Non è tanto il fatto che abbiamo già portato a casa 17 medaglie, 6 ori, 5 argenti, 6 bronzi, non dal fatto che i nostri atleti sono guardati, osservati, invidiati da tutto il mondo. Ma ripeto, fermatevi alle foto. Io davanti i giornali di questi giorni qua vedo nella prima pagina di ieri una foto che secondo me rimarrà nella memoria collettiva per tanto tempo. È la foto di Alessandro Zanardi, medaglia d'oro, trionfatore. Siede un uomo che dal tronco in giù non c'è nulla. Lui parte dal terreno, dal bacino in su. E batte con una possanza fisica di braccia invidiabile. E quest'uomo prende e solleva sopra la testa la sua bicicletta a mano che guida con le mani come se fosse un centauro tecnologico disassemblabile. È un uomo che funziona tantissimo, funziona molto più di quanto funzionava o avrebbe funzionato se avesse avuto queste gambe. E quindi può superare se stesso, superare dei record, può dimostrare che un uomo può correre velocissimo anche senza gambe se ha un supporto tecnologico. Ma è qualcosa di più, perché questo supporto, questa protesi, questa cosa in più che lo rende potentissimo, in realtà la smonta, la prende, la solleva, come se fosse qualcosa di leggerissimo. Un'altra foto, la foto di una lanciatrice del peso italiana, che anche lei penso che abbia vinto un oro, se non mi sbaglio, o sta vincendo un oro, o vincerà un oro. Assunta Lignante. È una donna cieca, non vede, ma ha una mascherina di Diabolik. La fa sembrare anche lei quasi una supereroina, una persona che appartiene, come nella nostra iconografia fanciullesca, a una generazione di superuomini, che deve sottolineare e mostrare la sua diversità proprio con dei segni tangibili della loro appartenenza a questa stirpe privilegiata. Come i nostri supereroi avevano le mascherine, come avevano la loro identità segreta, avevano la loro splendida identità di paladini dell'umanità, di essere iperdotati, beh, anche questa signora che non vede più ha una mascherina Diabolik. sbeffeggia, irride, ironizza sugli sguardi di commiserazione, ironizza sulla apparente, ipocrita e viscida pietà. E infine l'ultima foto splendida e suggestiva di Annalisa Minetti, la bella donna che abbiamo visto trionfare a Sanremo. Già allora tutti dissero, l'hanno fatta vincere perché cieca. Io lo so, perché io in quel Sanremo c'ero presente, partecipavo a quel festival. Qualcuno disse, non è proprio cieca, è ipovedente, un po' ci vede, abbiamo giocato sul pietismo, l'abbiamo fatta vincere. Beh, adesso stai tranquilla, è completamente cieca, non vede più niente, ma è bellissima, corre. E anche lei con la sua mascherina da supereroina, anche lei affiancata al suo partner, Andrea Giocondi, corrono in coppia, corrono in due, lui la informa, le dice in quel momento, come se fossero Batman e Robin, come se fossero anche loro due supereroi, cosa sta accadendo. E lei corre veloce e lei vince. 800240024. Oggi parleremo dei supereroi delle Paralimpiadi. Questa gente è veramente straordinaria, cioè è qui per vedere degli atleti. Noti quanto differente è il mondo nei confronti dello sport in generale, quindi anche quello tra virgolette dei disabili, e quanto invece ancora un po' ignoranti siamo noi italiani, che non avremmo mai riempito uno stadio per delle Paralimpiadi. Noi italiani siamo molto di cuore, veramente tanto di cuore, ma abbiamo un po' per la crisi economica, un po' per tante situazioni, che noi abbiamo tanti problemi in Italia. La disabilità non è una problematica se la sai vivere. Gli italiani ovviamente vengono sommersi da altri tipi di problemi. Nonostante abbiano un grandissimo cuore, fanno ovviamente molta fatica a capire quanto importante sia pagare un biglietto ed essere presente a una manifestazione di questo genere. A parlare era appunto la Minetti, Annalisa Minetti. Dice delle cose molto gentili e molto ottimistiche, ve lo dico perché conosco il problema in famiglia, un figlio disabile. Italia è un paese schifoso dal punto di vista dell'attenzione alla disabilità, orrendo in generale per la considerazione comune, orrendo per l'impegno pubblico nei confronti di persone disabili, ma noi ce ne sbattiamo le palle, non ci interessa, andiamo avanti lo stesso e questa mattina celebriamo i nostri supereroi. Stefano Caredda, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Caredda, un amico e un giornalista di Redattore Sociale, l'unica residua agenzia di stampa che si occupa di sociale in Italia, che è in collegamento da Londra, dove sta seguendo le Paralimpiadi professionalmente. Stefano, hai avuto anche tu questa impressione? Questo è un argomento su cui abbiamo spesso dibattuto. Ai tempi in cui uscì Pistorius, io dissi, osservate di Pistorius, non è una persona con delle protesi, lui non ha delle protesi, è un superuomo, è qualcosa che ha... gli permette di superare alcuni limiti dell'umanità. Tu hai avuto questa impressione di essere circondato da supereroi? Assolutamente sì, anche se noi giornalisti siamo stati, come dire, catechizzati dal Comitato Paralimpico Internazionale a fare molta attenzione all'utilizzare eccessivamente aggettivi come eroico o straordinario per raccontare le gesta di questi atleti. La cosa che ci viene chiesta è quella di raccontare gesta di atleti dal punto di vista sportivo, facendo comprendere la differenza con le prestazioni dei normodotati, dei cosiddetti normodotati, ma altrettanto è assolutamente straordinario non solo ciò che essi fanno, ma anche e soprattutto il contorno che noi qui abbiamo trovato a Londra. Tu capisci, noi sapevamo di trovare una Paralimpiade da record con 4.000 atleti, con 160 nazioni rappresentate. Non sapevamo, prima di venire a Londra, che questo sarebbe stato un evento collettivo, una festa popolare che prende un'intera città, ancor di più un intero paese. Allora, io con Stefano mi sento spesso, perché siamo appassionati più o meno nel risolvere gli stessi problemi, con problemi di ben altro tipo. Vogliamo capire perché le persone mettono le automobili nei parcheggi per disabili, vogliamo capire perché ancora il problema delle barriere sia così insormontabile, vogliamo capire perché per avere un permesso, un'agevolazione, un insegnante di sostegno, bisogna passare una così stolta e ottusa burocrazia. E oggi ci troviamo a parlare di qualcosa che sembra l'altra faccia della luna. Io quando dicevo Stefano supereroi non intendevo perché compiono atti di eroismo, perché sono fisicamente, morfologicamente ormai appartenenti a una specie di umanità futura. E non siamo più noi flaccidi, mollicci, limitati e sbagliati. dimostrano che in realtà l'essere umano ha delle risorse infinite e che in realtà con la volontà, la tecnologia e soprattutto un senso generale che non è quello di sopportazione, di osservare un problema, di considerare una persona come una toccata, lambita da una sorta di disgrazia divina e per questo va aiutata. No, non vanno aiutati in maniera particolare, vanno messi nelle condizioni di vivere al meglio la loro vita, perché la loro vita può essere fantastica ma può essere assolutamente anche la nostra. 800 24 0024. Ci sarà qualcuno fra voi che si è trovato a combattere, a dividersi fra burocrazia, fra problemi, fra incomprensioni, fra sguardi di commiserazione e mezze parole dette e non dette con il problema della disabilità? Come si sente oggi nel guardare questa meravigliosa esposizione paralimpica? Io credo che quando hai 20 anni e hai la fortuna, come è capitato al sottoscritto, di fare qualche cosa di davvero speciale, correre in Formula 1, realizzare tutti i tuoi sogni, credi che il momento della gara sia l'unica cosa che conta. Poi, a distanza di tempo, ti rendi conto di quanto eri fortunato eri. E oggi invece lo capisco benissimo e mi mancano quei giorni. Ho avuto la fortuna di rivivere tutto questo in una dimensione logicamente diversa, alla soglia dei 46 anni, rendendomi però stavolta perfettamente conto di quanto fortunato questo ero. Questo è Alessandro Zanardi che ti racconta la sua storia, la sua vicenda, anche un personaggio pubblico, un personaggio televisivo, qualcuno che ha saputo fantasticamente trasformare quella che per molti sarebbe stata una tristissima motivo di profonda depressione e menomazione fisica. Allora, Caredda, cerchiamo di capire assieme, visto che tu sei il nostro osservatore in questo momento, da chi è composto questo pubblico entusiasta che va a vedere le Paralimpiadi con un desiderio di gioia, di divertimento e di fantastica apprensione molto più che i giochi olimpici tradizionali. Assolutamente sì, è qualcosa di paragonabile forse solo ai mondiali di calcio, ma è di più e di meglio dei mondiali di calcio, perché sono tutti, sono anziani, sono donne, sono bambini. Non ho mai visto tanti passeggini andare allo stadio o ai luoghi di gara come in questi giorni. Sono intere famiglie con bambini piccoli che riempiono la metropolitana, tutti con la loro bandiera britannica d'ordinanza, vanno a tifare i propri atleti, applaudono tutti i vincitori senza alcuna eccezione. È veramente la gente, quella che noi possiamo definire la gente, ci vanno tutti. Qui è una copertura mediatica, quelli che non ci vanno se la guardano in televisione, 150 ore di diretta su Channel 4, dalla mattina alla sera tu vedi le gare delle Paralimpiadi, assolutamente straordinario, 11 milioni di spettatori per la cerimonia di apertura, roba che da noi il Festival di Sanremo o appunto i mondiali di calcio, non certamente le gare delle persone disabili. Ecco, la cosa che mi sembra singolare è che in realtà il nostro paese non è percepito con uguale attenzione, uguale entusiasmo, a parte voi corrispondenti che fate i vostri pezzi sui giornali, ci raccontate questi episodi. Non sento fibrillare nei bar dello sport nostrani una tale attenzione come la sentivo naturalmente per le Olimpiadi tradizionali. Sentiamo Marcello, buongiorno Marcello. Nicoletti, buongiorno, l'ascolto da anni. E credo che io sono un cieco, lei credo che un po' i ciechi li conosca, sì, ho tanti... quello che ha detto Raminetti. Ma niente, io innanzitutto sono contento di questi risultati delle Paraolimpiadi, perché ha riportato un po' l'attenzione giusta che va dato al mondo della disabilità in genere. In Italia forse un po' meno, perché noi siamo fatti così. Il nostro è un paese di grande cuore, come dice Laminetti, però è un paese che tendenzialmente fa una gran confusione. Una gran confusione, no, anche tendenzialmente, diciamo la verità, se ne sbatte un po' le palle. Scusi il termine, me lo lascio passare. No, no. Perché di fronte alla difficoltà di un'amica mia di trovare un taxi che gli prenda il cane di accompagno, la visita che deve fare ogni anno. Ogni anno va a fare una visita. Mi hanno detto di non fare interventi riflessivi. No, no, le faccio io per lei. È un'amica cieca che ogni anno mi faccio parlare, no? Deve fare la visita medica, ogni anno va, guardi, non sono stata miracolata ancora, e deve rifare la visita medica per dimostrare che sia cieca. Ci si fermi un attimo perché ho una persona al telefono che poi ha tempo. Luca Pancalli, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Luca Pancalli, vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, nonché segretario generale del Comitato Paralimpico Europeo. Qual è il punto di sorpresa per lei, Pancalli, di quello che sta accadendo a Londra rispetto a una realtà nazionale? Non abbiamo timore di dirlo. Una parte siamo felici, contenti, orgogliosi, l'altra non possiamo non fare le differenze. Ma è chiaro che quello che si sta vivendo a Londra è qualcosa di straordinario e da segnalare questo straordinario coinvolgimento della gente. Ispirare le generazioni è il claim e credo che lo abbiano fatto e lo stiano dimostrando. Ma non si può fare il paragone con il nostro paese, ma come non lo si può fare con nessun altro paese al mondo, perché chi ha l'occasione di ospitare dei giochi olimpici e paralimpici è imparagonabile, nel senso che ci troviamo a vivere come un sogno per il quale il comitato organizzatore olimpico e paralimpico ha lavorato da anni, ha potuto lavorare anche dal punto di vista culturale, perché tutti gli spettatori che fanno registrare il tutto esaurito tutti i giorni in tutti gli impianti sono spettatori che per anni hanno ascoltato da quando Londra venne scelta come città candidata ad oggi sono stati, come dire, oggetto di un processo di formazione culturale, di avvicinamento. Ma Pancalli, vede che allora però c'è una differenza. Per la prima volta è diventato un evento con un respiro così vasto e con questa nota di lietezza, di allegria, di euforia. Io credo che non sia, come dire, tutte le cose non vengono all'improvviso. Il mondo paralimpico internazionale sta crescendo di anno in anno. Diciamo che per la prima volta c'è stata una combinazione di ingredienti straordinaria. Un movimento paralimpico internazionale che ovviamente sta lavorando da anni, oggi 174 paesi all'interno, insomma, rispetto a quello solo al dato di 10 anni fa, è un dato strabiliante. Altro ingrediente straordinario, un paese di grande cultura sportiva come la Gran Bretagna, un paese dove... E anche di grande cultura riguardo l'attenzione alle difficoltà, all'handicap. Assolutamente. Beh, oddio, guardi che qui ci sono grandi polemiche. Quali sono le polemiche? Ci sono polemiche nei confronti del Ministro degli Affari Sociali per i tagli che si stanno facendo al mondo della disabilità, ci sono forti proteste da parte di associazioni disabili che hanno fischiato il ministro allo stadio, quindi bisogna sempre distinguere quello che avviene in una dimensione straordinaria sportiva che fa apparire tutto il bello rispetto a quello che poi è il vivere quotidiano delle persone disabili anche in questo paese. Ciò non toglie che non si può paragonare la situazione delle persone disabili in Gran Bretagna rispetto alle disattenzioni italiche, questo no, non lo voglio dire. Se lei potesse, Pancalli, prendere questa occasione e fare un punto, una volta tornato in patria, ci glorieremo, ci culleremo su quello che è stato, però sarebbe il caso magari di muoversi anche su un piano propositivo. Secondo lei in Italia qual è il livello di attenzione pubblico nei confronti delle potenzialità estreme che potrebbe avere la disabilità nel campo sportivo? Se potesse in questo momento fare una domanda o chiedere qualcosa di irrealizzabile, quale sarebbe il punto di approccio e a chi si rivolgerebbe? Ma guardi, allora, una domanda alla quale non riesco a dare una risposta francamente così ex abrupta, nel senso che io da dirigente sportivo, da persona, da ex atleta, da persona che vive il mondo dello sport da una vita prima e dopo l'incidente, ho vissuto tutte le fasi e tutte le tappe e devo dire che negli ultimi 12 anni noi abbiamo lavorato e francamente, passatemelo, il movimento paralimpico italiano oggi ha goduto anche di grande attenzione da parte di Rai, di Sky, di Carta Stampata, anche per il lavoro che è stato svolto in maniera molto, come dire, pregnante, pervasiva e efficace in tutti questi anni. È chiaro che si può fare sempre meglio ed è chiaro, un po' ricollegandomi al discorso che vi facevo poc'anzi, che anche noi abbiamo goduto di un'occasione straordinaria, perché anche da noi l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Torino, sia pure essi invernali, più piccolini rispetto alla grande dimensione estiva, però hanno rappresentato per noi come lo start di un processo di accelerazione della comunicazione. Oggi i comunicatori del mondo paralimpico, anche se in termini di quantità si può sempre migliorare, anche se devo dire la televisione sta facendo un lavoro straordinario, è andata a vedere i numeri, perché spesso la polemica semplice, siamo molto abituati in Italia, cioè siamo abituati a criticarci sempre. Guardate i numeri nel rispetto di tutte le altre televisioni al mondo e vedrete che l'Italia ha fatto meglio. Allora, diciamo anche quando le cose vanno bene, certo tutto è migliorabile, si possono fare tante cose. Qual è il punto di come dire, di il sogno irrealizzabile. Io non credo che ci sia un sogno irrealizzabile. Noi siamo arrivati fino a dove siamo arrivati, abbiamo dimostrato che la famiglia dello sport italiano in fondo è una e una sola, abbiamo dimostrato che si riesce a educare anche una cultura dei giornalisti affinché non attenzionino solo in maniera solidaristica e pietistica le storie umane come avveniva 10 anni fa. Questo mi sembra sia un po' passato, anche se è stata qualche gaffe, qualche giornalista chiedeva come vedi Londra, però ci sta anche quello. Sì, ci sta anche quello, non ci stiamo... Però oggi, se tu hai visto, i giornalisti guardano alla qualità, al gesto tecnico, alla... Sì, ma è questo che a me affascina, è il punto di diversità, è vedere oggi il titolo Pistorius corre meglio nelle Olimpiadi tradizionali, cioè con atleti normodotati che alle Paralimpiadi, quindi il fatto che si critichi comunque un atleta paralimpionico è bellissimo, si prende anche le critiche, ma è giusto, ma è giustissimo. Il giorno che si dirà quell'atleta paralimpico non ci è piaciuto, ha fatto schifo, non si è allenato, sarà il momento in cui veramente potremmo sorridere. Assolutamente, concordo pienamente. Io credo che lo spaccato che gli ha dato Londra, che rappresenta veramente, siamo oramai quasi agli ultimi giorni, uno spartiacque rispetto a un prima e un dopo, dà proprio una dimensione di normalità acquisita nella critica, nella non critica, insomma. Questo è uno straordinario risultato sul quale tutti i paesi poi dovranno costruire. È chiaro che noi ci occupiamo della dimensione sportiva. Sì, è chiaro che lei... Pancalli, la mia domanda nasce dal fatto che, per esperienze conosciute, comuni e condivise, quando la difficoltà in Italia è l'insegnante di sostegno, è il trasporto verso la scuola, sì, mi si riempie il cuore, ma quando di fronte a ragazzi abbandonati nei corridoi con una persona che li guarda come se fossero degli animali da cortile, e la possibilità, questi ragazzi comunque potrebbero esprimersi meglio, non perdendo tempo nei corridoi di una scuola dove non avranno mai nulla in comune, forse una mano potete darla anche voi atleti, anche alle persone che non hanno questa prospettiva, perché sai, nella scuola italiana si pensa, e poi continuerò il problema a parlarne con le persone che di questo ne sanno più di me, è che si pensa in nome di un forse un buonismo passato, che l'integrazione molte volte va a cozzare col principio che una persona che ha un problema va subito indirizzata verso una vita adeguata, con strutture adeguate al suo problema, farla convivere necessariamente con persone che vivono diversamente non l'aiuta. Quindi io sarei, se fosse possibile, Pancalli, con lei a lanciare l'idea che si pensi che la via dello sport può essere una via molto più favorevole per un ragazzo, piuttosto che costringerlo a stare 5 anni in una scuola a imparare a leggere e scrivere dove non imparerà mai. Magari correrà benissimo, diventerà un grande atleta, potrà essere un'altra cosa. Grazie mille Pancalli, in bocca al lupo per le prossime gare e buon ritorno in Italia. 800240024, stiamo parlando delle Paralimpiadi, stiamo parlando di uno spettacolo che ha dello straordinario, perché mai era accaduto che ci fosse un così grande entusiasmo popolare, di partecipazione, di gioia, divertimento. Insomma, le persone vanno a Londra a vedere gli atleti paralimpici per andare a vedere uno spettacolo nuovo, uno spettacolo esaltante. Non ci vanno per pietà, non ci vanno per commiserazione, non ci vanno per curiosità legata alla diversità. Naturalmente poi ci sono persone come Raul da Mantova, che sto cercando al telefono ma non risponde. Mi piacerebbe che chiamarlo, ma non per aprire con lui una polemica, semplicemente per ragionare con lui. Mi scrive: che palle Nicoletti, ma parli sempre di handicappati col K, non ce ne può fregare di meno. Lecito che non gliene freghi di meno, perfettamente lecito. Vorrei capire perché ha sentito il bisogno di scriverlo. Uno può dire: non mi interessa, non ascolto, non è un problema che mi tocca, come ha detto Paolo Villaggio tempo fa, proprio a Radio 24, trovo sia uno spettacolo non interessante o coperto da pietismo. Ognuno può avere la sua opinione, io rispetto tutte le opinioni, do per buono che molti queste cose le pensano e le dicono, ma dal momento che Raul da Mantova ha avuto questo desiderio di mandarmi un sms e dire che palle, non ce ne può fregare di meno, che è un gesto attivo, vorrei capire la profonda radice di questo suo risentimento. Io stavo al telefono con Stefano Caredda, l'inviato di redattore sociale da Londra, e volevo con Stefano velocemente ricollegarmi con quello che mi stavo, con cui stavo ragionando con Pancalli, che logicamente è entusiasta di questo momento. Tu che conosci bene il problema appunto dell'attenzione sociale e dell'attenzione pubblica nei confronti della disabilità, non trovi che questa, la via dello sport, sia una via interessante da seguire di fronte ai tanti problemi che tocchi ogni giorno con la tua professione, di mancanza di strutture, mancanza di attenzione, mancanza di qualificazione soprattutto per seguire e incrementare la possibilità di evoluzione di una persona con un handicap? Assolutamente sì, Gianluca. Se tu pensi, noi veniamo da 2 anni in Italia di campagna sui falsi invalidi, giornali e televisioni piene, nient'altro che degli handicappati che fregano la pensione e che mandano in rosso il bilancio dello Stato. Se finalmente lasciassimo anche solo per qualche giorno, anche solo per il periodo delle Paralimpiadi, lo spazio e il video non ai falsi ciechi, che sono pochi e abbastanza limitati sui grandi numeri del bilancio statale, ma ai video degli atleti che vincono medaglie alle Paralimpiadi, di Zanardi, della Legnante che ha vinto il suo oro con record del mondo, di Barnia che ieri ha trionfato nella gara su strada di ciclismo, insomma se finalmente riuscissimo a dimenticare gli handicappati che ci fregano chissà che cosa e ci mettessimo semplicemente a guardare le loro storie, le loro gare, la loro capacità di riscatto anche dopo momenti difficili vissuti, beh, il nostro paese farebbe un gran passo avanti. Si è detto la cosa giusta, perché è facile condividere l'indignazione pubblica, che schifoso, quello lì fingeva di essere cieco invece corre per strada, che bestia, quella lì che finge di essere handicappata invece va a giocare al lotto. Oggi pure c'è una storia divertente, tristissima, di un finto invalido che stava a casa in malattia, quando va il medico legale a fargli la perizia e fa il verbale che non stava a casa ma era a passeggio, lo va a cercare per le strade della sua città e lo gonfia di botte, dice cambia, era talmente invalido, disabilitato, che gonfia di botte il medico. Sono casi orrendi, schifosi, ma non possono segnare una categoria. È giusto che vanno scoperti e perseguiti, è giusto che si facciano le differenze, si capisca chi ci marcia sopra questa cosa qui, ma bisognerebbe cominciare a capire, a rimuovere l'ingranaggio in questa direzione, come dici tu giustamente. Donato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, io devo segnalare che purtroppo, e non è soltanto legato alle Paralimpiadi, ma è un malvezzo diffuso in Italia. In Italia esiste una cosa che io definisco cancro dello sport, ed è il calcio. Il calcio uccide tutti gli altri sport in Italia, che siano essi per normodotati, per disabili, per tutto quello che volete. In Italia si parla sempre e solo di calcio. Oggi, con tutto quello che hanno fatto gli atleti italiani alle Olimpiadi, Paralimpiadi, eccetera, avete sentito uno straccio di notizia? No, hanno detto che iniziano i mondiali, iniziano le qualificazioni, hanno parlato delle amichevoli, di Del Piero, eccetera, eccetera. Nessuno che si è degnato di parlare di questi sport definiti minori. Perché? Perché in Italia purtroppo esiste il calcio e basta. Fermiamoci un secondo. Claudio Arrigoni, buongiorno. Buongiorno. Sempre da Londra, Claudio Arrigoni, giornalista, ha lavorato quest'estate a Tempo di Sport su Radio 24, esperto e profondo conoscitore dello sport. Come rispondi innanzitutto te all'ascoltatore che ci ha detto questa cosa, rispetto al nostro costume nazionale e il nostro atteggiamento nazionale nei confronti dello sport? Ha un po' ragione, però è il gatto che si mangia la coda. La richiesta spesso è quella di sentire dove è andato Ibrahimovic, oppure se Balotelli ha messo incinta o no Raffaella Fico. È vero che è anche un po' colpa nostra, ma non è solo colpa nostra. Che sono anche notizie che possono far sorridere, essere divertenti, però tu che conosci profondamente la materia, secondo te non sarebbe anche il caso di fare una svolta? Ma non perché dobbiamo sentirci buoni, dobbiamo sentirci politicamente corretti, perché realmente è materia interessante, è materia divertente, è materia suggestiva. Quello che abbiamo visto a Londra non può cominciare a diventare anche materia di discussione e di spettacolo anche nel nostro paese, secondo te? O ci sono delle barriere per cui nessuna rete televisiva seria farà mai un programma specifico paralimpionico sugli sport paralimpionici? Guarda, hai usato una parola secondo me perfetta, spettacolo, perché qui a Londra ci stiamo divertendo, io almeno mi diverto con quello, una parte per me, mi diverto come un pazzo, ed è veramente spettacolare lo sport paralimpico, è spettacolare per un ragazzo che muove solo la testa e qui è un campione, è in uno sport che si chiama boccia e che viene praticato qui alla Paralimpiade, è uno degli sport paralimpici. Io credo che il mondo del paradosso debba esistere e noi dobbiamo mostrarlo. Io credo che Londra sia un punto di svolta, perché la RAI ha dedicato un canale intero, RAI Sport 1, e continuerà a farlo fino a domenica, alla Paralimpiade. Sky ha dedicato i suoi canali facendo il solito ottimo lavoro, il Corriere della Sera, per il quale scrivo anche qui da Londra, ha dedicato tutti i giorni uno o due pezzi addirittura alla Paralimpiade. Sì, infatti rispetto a quello che c'è l'ascoltatore, l'attenzione mediatica c'è stata, forse non c'è stato pari entusiasmo nel parlare comune, nelle chiacchiere da bar, nell'impressione generale. La copertura mediatica c'è stata, perché se oggi ne parliamo e se sono un evento è perché i giornalisti in questo caso hanno raccontato quello che lì accadeva, e lì accadeva qualcosa. Sì, sì, infatti è proprio, torniamo al primo discorso che abbiamo fatto, facciamo attenzione, perché è un po' veramente il gatto che si morde la coda, di chi è la colpa non lo sapremo mai, naturalmente, come in tutte le questioni mediatiche, però io credo che una riflessione vada fatta anche da questo punto di vista. Ma cosa chiede la gente? La gente chiede spettacolo. Io sono convinto che l'atleta paralimpionico oggi, ma per motivi che magari analizziamo insieme a te, c'è stato un upgrade tecnologico fantastico. Questi atletici molte volte possono fare quello che fanno perché la tecnologia e il tabù della protesi, che non è più un oggetto pietoso che aiuta una persona a vivere una vita quasi normale, ma no, è un fantastico potenziatore. Sono persone elaborate come è elaborato il motore di un'automobile da gara, di una motocicletta da gara. Sono persone che hanno delle protesi che in realtà li rendono essere qualcosa di più del limite umano. Questo è lo spettacolo dell'essere umano insertato con la tecnologia o con particolari e avanzati sistemi di attenzione di training, che dovrebbe secondo me richiamare l'attenzione. Hai ragione, guarda, mi faccio un autospot, ma permettimelo, io sono alla terza edizione di un libro che dedico lo sport paralimpico da anni, che si chiama Paralimpici, ed è edito da Repli, fra l'altro anche sui mezzi tipo Kindle e altri come ebook. Ebbene, io tutta una parte l'ho dedicata proprio a questo argomento, cioè a quanto è cresciuta la tecnologia in aiuto, naturalmente riferito allo sport, ma che poi diventa riferito alla vita quotidiana. Quello che stiamo vedendo qui a Londra, che state vedendo qui a Londra, è come se fosse la Formula 1 applicata poi alle automobili che guidiamo tutti i giorni. Le protesi che usa Oscar Pistorius o Johnny Pitcock, che ieri ha battuto Oscar Pistorius, ebbene, quegli studi aiuteranno migliaia, milioni di persone a camminare meglio. Mi interessa molto questa idea che questa immagine arcaica della natura che dispone, la natura matrigna che punisce, la natura che gratifica, la natura che è immutabile, intoccabile, intangibile, viene in questo campo finalmente violata e finalmente derisa. La natura non esiste, la natura è l'ingegno umano, la capacità umana di riprogettare se stesso ogni istante. 800240024. Abbiamo iniziato a parlare di Paralimpiadi e siamo sfociati in una fantastica celebrazione della modernità, della contemporaneità, dell'uomo proiettato verso il futuro, in cui delle persone che per vicende personali, per incidenti, per traumi o addirittura per patologie che hanno sin dalla nascita, hanno una conformazione fisica diversa dalla maggior parte degli esseri umani. Su queste persone si è aperto un grande laboratorio, un laboratorio di riprogettazione dell'umanità, di potenziamento dell'umanità. È come se noi avessimo in questi ultimi anni, in cui le nanotecnologie, lo studio delle materie, dei componenti, delle interfacce con il nostro fisico, stia facendo fare alla nostra evoluzione un passo velocissimo. Ci siamo più evoluti dal punto di vista delle potenzialità del nostro corpo in questi ultimi 10 anni quanto in centinaia di migliaia di anni l'uomo che comincia a ereggersi, a camminare, a usare il pollice opponibile, al sapiens a un uomo normalmente definito dei nostri giorni non c'è molta differenza, ma tra una persona senza le gambe e soltanto 10 anni fa e Pistorius e Zanardi c'è un'enorme, infinita differenza. Claudio da Parma, buongiorno. Buongiorno, intanto volevo complimenti per la trasmissione, perché parlare di queste cose in Italia si supera veramente un tabù enorme. Sì, ma perché... nessuno ci fucila, adesso non ci facciamo... No, è veramente molto al massimo bello. La gente se ne sbatte, come il signor che ha scritto, che sta, c'è una caccia all'uomo, tutti stanno cercando Raul da Mantova, tranquilli, avrà già staccato il telefono, buttato via la SIM e sotterrato e starà fuggendo per quello che ha osato dire, ma, si definisce da solo. Prego, andiamo avanti, Claudio. Sì, io volevo dire che oltre alle Olimpiadi c'è la quotidianità. Io sono un disabile e tutti i giorni lotto contro le barriere architettoniche. Ecco, bravo, di questo volevo parlare, perché sennò sembra che suoniamo il violino alle Paralimpiadi e poi non ci rendiamo conto in che situazione siamo nel nostro paese. Che tipo di disabilità hai, Claudio? Dunque, io ho una disabilità, ho avuto la poliomielite all'età di 2 anni e quindi ho il piede sinistro senza muscolo, senza bicipite, quindi zoppico, e ho difficoltà a fare le scale, quindi per me, quando vado in stazione a prendere un treno, non ho mai capito perché l'intelligenza umana progetti delle cose bellissime e non si riesca a allineare il marciapiede al primo gradino del treno. Bisogna sempre fare un salto, è un problema per te, ma un problema anche molte volte per le persone anziane. Più di una volta mi capita di raccogliere la vecchia con la valigia o il signore anziano che non ce la fa, è un salto grosso. È una roba, mentre invece se uno va in Giappone, ad esempio, i treni si fermano non solo nel posto indicato dal biglietto, ma ti si fermano all'altezza, ti trascini la valigia dentro con le rotelle e non c'è nessun problema. Qui in Italia sembra che questa... Guarda, noi siamo in un paese, ma tu lo sai meglio di me, che le rampe dei marciapiedi per le carrozzelle sono considerate dei fantastici parcheggi per le smart. Tutte le stronze nazionali che girano con la smart, il telefonino all'orecchio, dicevo, sembra fatta apposta, ce le infilano dentro. Certo, poi tra l'altro io molto tempo fa ho fatto l'assessore alla cultura nel mio paese e ho avuto la sfortuna di combattere contro quelle proprie persone che mettono le macchine nel posto disabili, che sembra anche questo uno sport nazionale. Io ho reagito in questa maniera, ho rigato la macchina e me la sono anche pagata, cioè nel senso che ho rigato la macchina alla persona che... E ti sei autodenunciato? Sì, e mi sono autodenunciato, però hanno pensato bene di buttarmi fuori dal partito, perché questo qui è un atteggiamento che un assessore non deve avere. Secondo non è bellissimo comunque. Sì, non è bellissimo, però se portato... Considerato treni... quanto è difficile poi avere quel contrassegno, a meno che uno non abbia santi in paradiso, e considerare quanto è di ristoro sapere se possa parcheggiare la macchina con una persona con un problema e senza dover fare infiniti giri, questa cosa dispiace molto. Però, come ha detto prima il nostro collega giustamente, non fermiamoci su questi aspetti, andiamo avanti. Grazie, Marco. Sì, buongiorno. Eccomi. Buongiorno. E noi stavo pensando una cosa. Ci sono sport assorti all'Olimpiade come il badminton, cioè il tamburello, in pratica, da bambini ci giocavamo e ci prendevamo anche in giro con questo pispolo che ci tiravamo, che onestamente non sono niente confronto alla prestazione di Zanardi. Io ho visto veramente un gesto atletico bellissimo, sono cose che allargano il cuore. Sì, quella foto secondo me entra negli annali, nella nostra memoria. Ah, il centauro che alza la sua metà tecnologica e la solleva. Sì, è una cosa... per assurdo, diciamo, proiettando la cosa in una visione metafisica, è qualcosa che le persone normali non potranno mai fare, perché non esisterà mai che un pilota di moto possa prendere la moto e sollevarla. Lo fa lui che può, quindi c'è anche addirittura il sorpasso, diciamo così. È tutto qui. Grazie. Nicola. Buongiorno. Pronto? Sì, l'ascolto, Nicola. Buongiorno, Nicoletti. E allora io, insieme alla scuola di Modica, che è una scuola per scherma normale, per non dotati, un paio di anni fa siamo partiti scontrando tutte le difficoltà anche nell'ambito, sono non vedente innanzitutto, un cieco, ecco, come voi dite, e abbiamo ideato questo progetto per portare avanti. Non le dà fastidio che dica cieco, no? No, io tutti gli amici che ho ciechi dico, ma chiamami cieco, che non è mica un'offesa, no. Una persona che non vede, uno capisce subito. Per tante volte, sa, dietro l'eufemismo si nasconde una puriginosa volontà di tenersi a distanza del problema. Esatto. Quindi dicevo, sto progetto che stiamo portando avanti, la scherma per non vedenti, ma a livello agonistico. Come funziona? Va bene? Funziona? È una cosa che... Quando siamo partiti in due, adesso c'è già Milano, Bologna, Firenze, Pisa, si sta partendo in tutta Italia. Non è semplice, perché bisogna lavorare tanto, tantissimo, e voi parlavate di tecnologia, che è importante che ci sia. Noi non abbiamo inserito niente di importante, la stiamo facendo regolarmente, come mettendo delle regole, poche regole sulla pedana, una riga in mezzo alla pedana che ci permetta di direzionarci verso l'avversario, pochissime cose. E sta andando avanti benissimo, è un progetto molto bello, se hanno dei gesti tecnici abbastanza validi, ormai siamo un punto di sperimentazione. Ma come vede, come diceva appunto il collega Arrigoni, è chiaro che si sta muovendo qualcosa, sta muovendo, però nella non percezione generale di tutti. Oggi chi ha un figlio con un problema sappia che esistono le strutture, esiste il modo di non tenerselo sempre dentro casa o a spasso come se fosse un vecchietto da pensionato in giro per la città non sapendo cosa fargli fare. Marisa, veloce. Buongiorno. Sì. Sì, sono io, sono Marisa. Sì. Niente, io sono moglie di un ipovedente, siamo sposati da 27 anni. Con mio marito ho sempre fatto sport, noi andiamo a camminare, a correre, andiamo a sciare, io davanti, lui dietro, abbiamo sempre fatto sport insieme. Come Giocondi con la Minetti, solo che invertite i ruoli. Sì, sì, sì, però c'è una cosa che ci tenevo a dire, che questi giochi molto divertenti però anche molto istruttivi, perché quello che ho notato in questi anni è cresciuta molto davvero la sensibilità di fronte a questi problemi, ma non è cresciuta di pari passo la conoscenza. Poi mio marito capita spesso di sentirsi dire: ma se non ci vedi perché non ti metti gli occhiali? Vabbè. Sì, però sono cose con cui si fa i conti, si sa, è normale. Sì, sì, no, è normalissimo, si fanno quotidianamente. Non si può improvvisamente chiedere una plateale, totale, immediata sensibilità. No, no. Quello che si chiede è che le istituzioni, perlomeno in questo campo, facciano il loro dovere quando posso fare il loro dovere. Io velocemente, proprio una battuta con Claudio Arrigoni, rispetto all'aspetto tecnologico, tu che sei un esperto, poi siamo proprio in sigla, in percentuale quanto è, diciamo, l'incremento della tecnologia nella capacità di creare spettacolo, come abbiamo detto? Dipende chiaramente dagli sport, però se parliamo per esempio della gara straordinaria che abbiamo vinto sui 100 metri ieri, in percentuale io dico che è 50-50, serve l'uomo, serve la tecnologia. E l'importante è che la tecnologia riesca a compensare e potenziare questo 50% che altrimenti lascerebbe quell'uomo in una condizione molto triste. Grazie a Arrigoni, grazie a tutti gli ospiti, grazie a Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini, ci sentiamo lunedì con Melog. Thank you.